Ciu. Chi è Ciucucciù? Chi è? Io, buonasera. Buonasera. E che apparecchio stai usando? Il 140, perché? Sto scendo basso. No, è che sento un bip. Ah, vabbè, il microfono sei a delta, quindi. Ah, per quello è il bip del microfono, a fanfalla. Esatto, bravo. Non si è sentito nessuno stasera. A quanto sembra, no? E tu cosa stai facendo di bello? Sì, mi sono seduto adesso e ho acceso il baracchino. Ah, ok, allora già va bene. Io mi sto cucinando, lo aspetto a Pino. Piano piano. A casa, dopodiché si vedrà dopo. Io mi sono alzato adesso dal letto. Che succede? Praticamente l'ho coricato. Anche la lavatrice! Ah, guida qui. La lavatrice. Luca. Antonio, te ne dicevo invece la lavatrice. Ti ho detto, se le vuoi te le prendi. Ce li ho. Ce li sto buttando, sono resistenze e costano un sacco di soldi. Qui ci sono tutto il resto che va nel cestello, in pratica tubi, tubi di scarico, eccetera, eccetera. Tutta roba nuova, è roba di magazzino, non è roba recuperata dalla mondetta, è roba di magazzino, il discorso è quello. Che mi ha lasciato Prospero, e tu già lo sai. Se avessi saputo mi sarei tenuto anche, guarda, i cestelli completi, a un certo punto, quelli con la plastica intorno, ci ho buttato tutto, guarda, mi sono sentito veramente male a darli, se no mi sei fatto i soldi, perché tanto la lavatrice adesso sono tutte con il cestello che in pratica c'è la plastica intorno, la guarnizione, eccetera, eccetera. No, neanche io di una lavatrice digitale addirittura, mi si è rotto il cestello e gli ho messo sul film che se servivano a qualcuno per i cambi. Ma non è piglia nessuno, posso dire, l'ho messo io, mi stavo regalando, non mi ha risposto nessuno, figurati tu. Quindi a un certo punto ho detto, se li vuoi tu, se ti servono, vieni a casa, te li prendi, non me ne frega niente a me, tubi, ci sono tubi di scarico, tubi che vanno alla, come si chiama, la dopodiché ci sono c'è tutto, c'è, hai capito? Tutto nuovo. Quindi a un certo punto, se serve qualcuno, viene e se li prende. Dopodiché, non lo so. Se no, io e le cassone della modetta ce li butto, l'ho fatto con con detto la roba che c'era prima. Ciucucciù. Attenzione, Marcolino Condo, ACC. Sì, ma quando sarà in giro sarà sentato oggi. A Prospodes, a farci un giro, oggi c'è la festa, manna. Sì, perché anche io non vorrei andare, non si può andare nessun luogo, anch'io. E tu mi hai niente. Mi chiedo andare a Pocciodoro a Brucca. Ah, io già sono qua, poi non lo so. A un certo punto, io voglio uscire a testa, vabbè. Eravamo anche noi giovani, te lo ricordi, uscivamo in macchina con l'aereo club, eccetera, eccetera, facevamo il giro in macchina per cercare gli ubriaconi, che erano già corti prima di arrivare a casa a Bibbio di Sorso. Quindi figura di Bibbio, stanotte sarà un casino, stanotte usciranno tutti corti. Prima di arrivare lì a cosa, a promotore, che gli ha chiesto il sindaco di bere, se è quello che bevono prima, te lo dico io. Almeno non fanno casino. scendevano da Sassari a Porto Torre che facevamo servizio con i lampeggianti, te lo ricordo. E il TV l'abbiamo bloccato insieme a Angelo Lasso, tutti i cati sblosi, casa terra, casa, tutti vomitando, e c'era all'incrocio qualcosa tra Sassari e Sassari, e c'era più di uno, c'era, già me lo ricordo qua, non ti preoccupare. E che ha fatto? Non ho più visto Angelo Asso, chissà che fine ha fatto. Senz'altro sta lavorando lì al coso, alla... dove sempre. Quindi, anzi, sarà senz'altro in pensione, mi sono passati parecchi anni, quindi a un certo punto. Ieri mi ha chiamato coso, lo sai, su... mi ha chiesto l'amicizia, figurati, anche a papà mi ha chiesto l'amicizia, è a cosa? A Roma è. Sì, Andrea. Andrea papà mi ha chiesto l'amicizia, ha detto che a Roma abita lì, non è più a cosa, Tissi, quindi figurati. Prima sempre ti ricordi a Sassari, Tissi, eccetera, eccetera. Adesso è a Roma, abita. Dice che lavora per conto del coso. Beh, io non ci credo per niente, ma comunque sia. Lui dice che lavora per conto del come si chiama, dell'INPS lavora. 20 anni ha detto. Io ho detto, cazzo, magari. Un cappa. Questa amicizia ieri mi ha chiesto la verità. Si chiama Pier Andrea Ruglio, basta che guardi e controlli. C'è una foto in bianco e nero, c'è. Un cappa. Io non sto più entrando su Facebook. E vabbè, neanche io, non è che stia più entrando. Intanto mi arriva questo il bip dell'amicizia, capito, controllo. L'altro giorno mi è arrivato una ragazza, voleva entrare e voleva in pratica che io gli lassi il, come si chiama, il numero di telefono di WhatsApp più il codice di Facebook, capito? Con la password, gli ho detto vai, fate una gaggata, gli ho detto va. E pensavo a cazzo, hai capito che c'avevo un cazzo che un libretto magari postale e cosa del genere, mi aveva fatto dei soldi, e col cazzo saltare. Quello lì magari era qualche maschio che stava cercando di fare qualche truffa, ha messo la fotografia di una ragazza a vedere se ci cascavi. E gli ha messo, ma conto, ha messo due, una di fronte all'altra, con senso nominativo, cioè non relativo, ha messo nome, ma comunque sia, immediatamente ha fatto la segnalazione, così almeno è fottuto. Sì, infatti, è fatto bene. Vabbè, dai, io me ne faccio un QRX che vado a farmi il caffè. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ok, d'accordo, dai. Adesso mi controllo lo spettacolo che sto facendo per domani e dopodiché è che faccio il coso, il cavallo. Andrà bene mela, controlla il spezzatino, sai se bruci. Tranquillo, già lo so fare lo spezzatino, già la lira. Oggi ho fatto con le patatine fritte, la verità. E viene molto ma molto meglio, è molto più buono. Luca, c'è sì? Sono un soldatore, oggi. Ma vabbè, lavora.